известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Dovete cercare le vie per diffondere in forme nuove voci e immagini di speranza attraverso la rete telematica che avvolge il nostro pianeta con maglie sempre più fitte. That is why I've proposed an American recovery and reinvestment plan. Anno 2009, no? Se ci si mette alla ricerca di possibili protagonisti assoluti dell'anno appena cominciato, insomma ci si può mettere d'accordo facilmente su due nomi, Barack Obama e Joseph Ratzinger, straordinarie personalità, gigantesche responsabilità, una grande connessione con il contemporaneo che ad esempio è dimostrata dal fatto che quasi in sincronia Obama e Benedetto XVI abbiano cominciato a comunicare con la loro rispettiva platea globale utilizzando proprio l'ultima possibilità offerta dalla tecnologia come YouTube, internet, il fatto di apparire anche in video, l'istantaneità e la trasversalità di questa comunicazione. Però poi d'improvviso le due strade in questione si dividono e di queste ore la notizia che Obama, non appena diventato presidente, non proprio il 22 come hanno fatto i suoi predecessori, ma il 23 gennaio ha messo la firma sotto un ordine esecutivo con cui si rimuove il divieto dell'uso di fondi federali per la promozione dell'interruzione di gravidanza nei paesi in via di sviluppo, con la volontà esplicita e dichiarata di proteggere il diritto di scelta della donna. C'è stata una immediata reazione da parte della Chiesa Cattolica americana che ha espresso, virgolettato, grande disappunto per la mossa di Obama. Una amministrazione che vuole ridurre gli aborti non dovrebbe deviare fondi federali verso gruppi che promuovono l'aborto. Poi è saltato fuori quello strano spot cattolico americano che dice: caro Mr. Obama, tu sei un afroamericano figlio di una madre single, ti rendi conto che sei stato fortunato, perché se si guardano le statistiche dell'aborto, uno che ci poteva finire in mezzo sei esattamente tu. E già si profila la questione delle staminali, mentre i liberal di tutto il mondo così festeggiano i posizionamenti progressivi di Barack Obama, la Chiesa Cattolica sembra reagire con inquietudine, per ora con posizionamenti magari dislocati, non nella sede centrale, ma la sensazione è che si possa appunto profilare uno scenario di guerra culturale su uno sfondo etico di cui abbiamo chiamato voi stessi a testimoniare, a parlare nel nostro sito Facebook di discussione. L'avete fatto con tanti interventi che punteggeranno questa prima parte del programma, nella quale abbiamo due ospiti graditissimi, ci daranno i loro rispettivi punti di vista. Il nostro amico Filippo Di Giacomo, sacerdote ma anche conduttore qui alla del T4. Ciao Filippo. Ciao. E poi in collegamento telefonico c'è un collega di Filippo Giacomo, in quanto insieme hanno animato un programma dibattito proprio su punti di vista, per lo più su questioni etiche e religiose, ovvero Pietro Folena, intellettuale politico indipendente di sinistra. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti, grazie. Però dopo che ho fatto questa lunga premessa, e perché secondo me c'entra, poi voi mi direte se ho torto o ragione nella configurazione di questo scenario con due grandi protagonisti ma delle tensioni così diversificate, noi dobbiamo sentire una voce che avete sentito appena qualche istante fa anche al GR. I believe that the historical evidence, La voce di Richard Williamson, uno dei quattro vescovi ordinati da Lefebvre che hanno ricevuto il perdono pontificio, che dichiara: io credo che le prove storiche siano fortemente e largamente contro l'idea che 6 milioni di ebrei siano stati deliberatamente uccisi nelle camere a gas per una politica deliberata di Adolf Hitler. C'è un intervistatore che gli chiede: lei dice che nessuno è stato ucciso nelle camere a gas, quindi che non c'erano le camere a gas? gas, e Williamson, testuali parole, risponde: io credo che non ci fossero camere a gas. Da quando ho iniziato a studiare le prove, non dal punto di vista emotivo, io penso per esempio che le persone che sono contro ciò che è largamente riconosciuto come vero sull'Olocausto, i revisionisti, come vengono chiamati, arrivino alla conclusione che 200.000 o 300.000 ebrei siano morti nei campi di concentramento, ma nessuno di questi in una camera a gas. E volenti o nolenti, Filippo, c'è in questo scenario, con due grandi protagonisti, un mondo che si sta come no elasticamente tendendo, no, ma anche questa voglia di cercare simboli, di cercare protagonisti, cercare leadership riconoscibili e forti, insomma un momento in cui è utile, è interessante, è importante andarsi a infilare dentro, no, trovare una giusta posizione. Lo stesso protagonista delle censure, o delle comunque allargamente ammissibili e accettabili prese di posizione nei confronti delle decisioni di Barack Obama, al tempo stesso prende altre posizioni che poi creano, no, uno scenario che, stratificandosi, può diventare complesso, anche in qualche modo preoccupante. Vorrei prima di tutto da te un punto di vista su quello che abbiamo appena ascoltato. Ma io credo che nella Chiesa il silenzio di questi giorni, che viene, diciamo così, più o meno agitato solo dalle urla di qualche ratzingeriano di ferro come il Cardinal Casper e il Cardinal Schönborn, che hanno speso molti sforzi per definire le dichiarazioni Williamson parole stolte o parole assolutamente stupide. Cioè, nonostante che appunto in molti abbiano dato del pirla, perché probabilmente lo è, a questo Williamson, a me non stupisce, perché De Benoist ed altri pensatori negazionisti di destra fanno parte tra i sostenitori. Ma non è Williamson il problema, però, no? Non è Williamson il problema, visto che poi Lefebvre oltretutto ha avuto il padre ucciso in un campo di concentramento. Il vero problema è stato che nell'anno di grazia 2009, avendo a disposizione 365 giorni, qualcuno ha scelto proprio il giorno in cui convergevano l'anniversario dell'annuncio dell'indizione del concilio, la fine dell'ottavario di preghiera unità dei cristiani, l'inizio delle celebrazioni del giorno della memoria, per sdoganare questi quattro baldi intellettuali che, appunto, del dialogo con i protestanti, del dialogo con gli ebrei sulla libertà religiosa e sul concilio, hanno sempre visto le tracce evidenti della congiura giudaico-massonica che avrebbe rovinato la Chiesa. Il mondo è una macchina per fabbricare simboli, ci ha indicato Mircea Eliade, e che la Chiesa non abbia avuto attenzione a questo simbolo, secondo me, è qualcosa che in un futuro conclave avrà certamente molto peso. Pietro Folena, un tuo punto di vista su questa situazione, in connessione, come dicevamo in apertura, poi con uno sfondo dove la voce in cui la Chiesa è estremamente vocale in questo momento, proprio su questioni di ordine etico. In un certo senso si può essere vocali su questioni di ordine etico importanti e anche dilanianti, come l'aborto, ad esempio, al tempo stesso procedendo a una strana questione in sospeso tra diplomazia o fini non perfettamente chiari, come questo perdono, questo riavvicinamento. Che cosa ne pensi? Io penso che, quanto insomma diceva Filippo poco fa, c'è dell'esistenza di una sorta di partito reazionario, diciamo, all'interno della Chiesa e del Vaticano, che insomma forse anche volutamente o stoltamente provoca le condizioni di un'uscita, di un cortocircuito come questo. Anche questa possibile interpretazione getta luce su un papato che, diciamo, è comunque un papato fortemente anticonciliare. Siamo alla cancellazione in qualche modo di tutta l'eredità del Concilio Vaticano II, pur essendo stato Ratzinger uno dei, insomma, giovani intellettuali che avevano in qualche modo seguito e vissuto anche con fervore quel periodo. E bisogna anche, insomma, io sono rimasto colpito questa mattina da questa intervista di Hans Küng, un grandissimo teologo tedesco che credo, insomma, abbia avuto anche con Ratzinger, abbia fatto anche in qualche modo esperienze culturali e di studio comuni, e che dà, diciamo, sostanzialmente un giudizio di questo tipo. Quindi noi siamo di fronte a una un'ideologia in qualche modo comprensibile, cioè quella di dire in questo mondo bisogna riaffermare la superiorità e la supremazia della fede cristiana, ma in nome di questo principio, diciamo, della superiorità, si rischia di fare degli errori o di... Ecco, ma non è anche la sensazione di essere al cospetto, connettendo, come dicevo in apertura, delle storie che a prima vista non sono a stretto contatto, no? La firma di Obama per l'aborto, l'avvio della ricerca sulle staminali, le relative autorizzazioni, questa storia interna al Vaticano, che però danno luogo alla fine a quella che visibilmente è una polarizzazione. La vedi, la percepisci questa polarizzazione in un certo senso etica, ma naturalmente non tra buoni e cattivi, ma tra un mondo estremamente arroccato e conservatore e un mondo che prova a essere, forse in certi termini anche velleitariamente, libera, che cerca di risvegliare un ideale libera. Sì, diciamo, anche all'interno del mondo cattolico e della Chiesa, secondo me, anche se con ancora una certa timidezza, insomma, ma cominciano a riemergere posizioni di segno antitetico rispetto a quelle che abbiamo visto. Io penso, insomma, all'ultimo libro di Martini, penso all'ispirazione di Tetta Manzi e a tante altre voci che ci sono state. Obama non lo leggerei semplicemente come una posizione liberale contrapposta a, diciamo, questa posizione neo-identitaria della Chiesa. Io lo vedo come uno dei leader religiosamente più ispirati, insomma, forse uno dei leader cristiani più importanti che ci sono nel pianeta, che però ha una visione del rapporto con la cosa pubblica e con lo Stato, che poi è chiarito molto bene nel discorso dopo il giuramento, di fortissima laicità, istituzioni che trovano la loro ispirazione nella Bibbia, un presidente che trova, diciamo, le ragioni della sua battaglia per la giustizia nella sua fede in Dio, che tuttavia è capace di rivolgersi in quel modo ai musulmani, in quel modo agli atei, in quel modo a tutti gli altri. E quindi, insomma, io auspico che diciamo, anche nel mondo cattolico americano, che negli ultimi anni aveva conosciuto una certa involuzione conservatrice negli anni di Bush, insomma, mentre storicamente aveva avuto posizioni più avanzate, insomma, negli ultimi anni si era fortemente arretrato. Spero che questo spirito, che mi pare animi la presidenza di Obama, possa essere colto, perché va bene. Ascoltiamo adesso, non ce n'è bisogno. Ascoltiamo adesso, prima di ridare la parola a Filippo, alcuni dei pareri che abbiamo raccolto su Facebook. Più o meno abbiamo presentato la proposta. Sì, questa mattina abbiamo fatto partire la nostra domanda su Facebook. Sta nascendo una dicotomia insanabile tra Vaticano di Benedetto XVI e la nuova amministrazione americana di Obama, e poi, come la pallina di Filippo, naturalmente questa domanda ha subito poi delle variazioni di traiettoria, rimbalzata nella rete, e sono arrivati moltissimi commenti, moltissime sollecitazioni. Per esempio Federico dice una cosa che magari potrebbe anche commentare Folena, cioè dice che Obama è come Zapatero, entrambi sono progressisti nell'accezione migliore del termine. Poi c'è Mia Froic che dice: nessuna guerra culturale, in America si ricordano le elezioni di Camillo Benso, Conte di Cavour, libera Chiesa e libero Stato. Sostanzialmente, diciamo che c'è una netta predominanza di pareri favorevoli ad Obama in questa eventuale dicotomia e di molte critiche alla Chiesa Benedetto XVI. Filippo, ti leggo soprattutto a te alcune critiche in serie, in fila. Giampaolo dice: penso che chi vive fuori dal tempo sia destinato a soccombere, l'integralismo è una minaccia e la svolta in tal senso della politica vaticana porterà fenomeni di autodistruzione. Poi c'è Matilde che chiede: ma la Chiesa non dovrebbe semplicemente imporre i suoi precetti ai cattolici e non agli stati? E infine Sandro Durissimo: non è da oggi che la diplomazia vaticana sembra quella di Giulio II o di un Borgia. Filippo. Ma oggi il Presidente della Conferenza Episcopale ha ricordato come a presidio delle comunità locali e territoriali in Italia ci siano rimasti solo le parrocchie, che noi, diciamo così, la Chiesa continuerà ad assumere questo presidio, non perché occupa la terra, ma perché esprime un insieme di comunità. Quindi, se appena usciamo dalla terrazza da cui guardiamo il mondo e cerchiamo di raffrontarci alla realtà, per esempio, io farei anche notare che se andiamo così ad analizzare le zone di degrado più più importanti che abbiamo in Italia, la Scampia a Corfiale, se c'è una battaglia che è stata vinta intorno a quello che le comunità cristiane hanno fatto e non intorno ai vuoti che lo Stato ha creato. Quindi questo è sociologicamente, per restare in Italia, a posto di parlare da fuori dalla realtà. Questo è un problema però che all'interno della Chiesa certamente farà maturare proprio la supremazia della verità del Concilio, che ha restituito, per così dire, la Chiesa ai battezzati laici, perché situazioni, incidenti di percorso di questo genere, dettati più che altro da spinte estetizzanti di qualche gruppuscolo clericale che sta probabilmente intorno alle stanze del potere, restituirà alla Chiesa una maggiore convinzione che il cristianesimo è qualcosa di troppo serio per essere lasciato solo in mano ai preti. No, io vorrei volare un attimo bassissimo e dirti semplicemente una cosa: c'è un personaggio che sta scuotendo, in alcuni casi facendo innamorare, in altri casi appassionando, forse anche innervosendo il mondo, che è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. I primi interventi espressi dalla Chiesa Cattolica nei suoi confronti sono interventi frontali, insomma, diciamo che è tondo. Ti rispondo seriamente, intanto perché come europeo anche i cattolici credo che di fronte a tutti gli alleluia della cerimonia e giuramento presidenziale, diciamo, non è che siamo diventati molto caldi, perché in realtà forse la maggiore distinzione anche formale tra ciò che è laico e ciò che è pubblico, ciò che è privato, dovrebbe rientrare anche in quell'ambito. Poi in realtà bisogna avere anche memoria, perché è inutile che ci giriamo intorno. Il finanziamento pubblico americano alle campagne di controllo delle nascite nasce con Johnson come prerequisito anche all'attribuzione di altri è una merce di scambio tra presidenti repubblicani e democratici. Anch'io ti do aiuti a te, Uganda, a condizione che tu faccia la legge che mi permetta l'aborto. Idi Amin Dada, diciamo così, reagì in altro modo. Ora, se prendiamo, diciamo così, tutta la lista di interventi massicci del sistema americano sulle nazioni del terzo mondo, che magari hanno un'altra visione antropologica, adesso è inutile che la vendiamo come oro perché luccica. Può anche darsi una solita riedizione di un colonialismo che a volte ci può anche, dovrebbe anche farci preoccupare. Sono a corto di tempo, ma ancora qualche messaggio Facebook. Sì, altri commenti di tenore diverso rispetto a quelli che abbiamo appena ricordato. C'è Matteo che invece dice: Obama deve stare attento, dato che una grossa parte degli americani, soprattutto quelli degli stati centrali, sono molto religiosi. E poi c'è Francesco che invece non si unisce al coro di entusiasmo, di slanci anche emotivi verso Obama, e dice: non è l'alba di niente questa nuova iniziativa di Obama, ma semplicemente una nuova e naturale ennesima alba, che nulla vuol dire se non il fatto che un giorno è terminato e un nuovo inizia. Aspettiamo 24 ore, ne verrà un'altra e poi ancora un'altra e un'altra ancora. Ecco, Pietro Folena. Alessandro invece ci scrive sul sito Facebook, ci scrive: i primi passi di Barack Obama sono molto incoraggianti, e questa è una delle tante voci nel coro di coloro che stanno seguendo, credo, in modo, se mi passi l'espressione, anche post politico, le gesta comunque del 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Non sembra in questo momento il posizionamento della Chiesa cattolica, no? In relazione a una firma e mezza, due firme se vogliamo considerare la imminente decisione sulle staminali, ma tutto ciò naturalmente crea no, un fronteggiamento, è inevitabile pensarlo. C'è il rischio di una guerra culturale di questo genere? Ma io spero che si ritrovi un attimo, come posso dire, il lume della ragione attorno alle cose concrete, perché le decisioni sull'auto ecologica piuttosto che quella sul, diciamo, messa al bando della tortura, vanno esattamente nella direzione che io penso, soprattutto al papato di Giovanni Paolo II, è stata auspicata anche da parte cattolica e di altre, cioè di avere un modello di vita molto più rispettoso della vita, no? Dell'ambiente. Quindi io, insomma, ma quello delle auto ecologiche, voglio fare l'avvocato del diavolo, se me la passi, ma quello delle auto ecologiche in questo momento non è il grande territorio, insomma, del volemos bene, il politicamente corretto. Vogliamo tutti un'auto ecologica, poi se ne parlerà, probabilmente cattolici, protestanti e anche atei, siamo pronti ad abbracciarci sulle auto ecologiche, ma non è un po' pochino? Sì, no, parliamoci chiaro, è anche il modo mascherato per dare aiuti di Stato all'industria automobilistica americana, che è drammaticamente in crisi. Però rimane il fatto che, non è che lo dice oggi Obama, è che la svolta ambientale dal modo con cui alimentare il riscaldamento per le abitazioni fino, insomma, a tutte le politiche energetiche vanno in una direzione che era stata rifiutata completamente dai signori del petrolio e dai loro e dalle loro espressioni politiche. La famiglia Bush è stata legata a doppio, a triplo filo, diciamo, a questi interessi. Quindi io trovo che invece in questo inizio, senza, diciamo, non posso dire cedere in enfasi, in retorica, perché è sempre sbagliato e pericoloso, ci sia qualcosa di estremamente promettente. L'Obama che parla Al Jazeera e che, diciamo, in quel modo viene recepito da anche dal mondo musulmano, secondo sondaggi fatti proprio nei giorni scorsi, mi ricorda molto il modo in cui Papa Wojtyla, sto parlando adesso di due leader di natura completamente diverse, ma era capace di rapportarsi a altre fedi religiose in tutto il mondo. Insomma, io trovo che è un leader che esce dai canoni tradizionali anche della sinistra. Grazie Pietro. Anche quelli della sinistra. Per concludere con Filippo, Pietro Folena ha appena paragonato Obama a Papa Wojtyla, insomma mi sembra che ma ci sia un convitato di pietra, ma poi a noi, agli ascoltatori che ce l'hanno così insistentemente chiesto, dare in pochi secondi comunque una chiave di lettura, se non altro, di questa storia dei lefebvriani, insomma un dato di comprensione in più, anche per cercare di comporre poi un quadro che si sta estremamente complicando. Ci sono le tentazioni dei nuovi leader, le resistenze dei leader già stabiliti. Che sta succedendo? Ma in 24 anni di presidenza della Congregazione Dottrina della Fede, Ratzinger fu famoso perché non ha dato nessuna scomunica. Ce n'era una che fu, diciamo, imposta da Giovanni Paolo II. Credo che abbia voluto cancellare anche questa sua presa di posizione malvoluta a suo tempo. Cioè un atto di buona volontà che non ha tenuto conto di tutte le diverse sensibilità. In fondo anche da un uomo così ma in fondo questo anche la Chiesa, e non è, anche Giovanni Paolo II a volte peccava di questo, a volte anche la Chiesa, per non discriminare le minoranze, si dimentica che anche la maggioranza ha la sua sensibilità. Va bene, ti terremo informato sulle ulteriori reazioni dei nostri ascoltatori. Ci sentiamo tra pochi istanti. Per il giorno a memoria abbiamo un'intervista di particolare interesse. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. E vogliamo aver lanciato un sasso nella piccionaia di questo dibattito globale che mette insieme politica, spiritualità, religione, etica, tante cose insieme mescolate in una Macedonia che può essere saporita, può essere pericolosa. Ci interessa indagarla, continuando il dibattito non solo in trasmissione ma anche sui nostri siti Facebook. Si chiamano Redazione Jefferson 2 per parlare e proporre direttamente a noi della redazione, oppure Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, dove peschiamo, dove proponiamo e poi peschiamo i vostri interventi. Abbiamo, come vi abbiamo detto, una interessante intervista da proporvi per a modo nostro celebrare il giorno della memoria, ma prima qualche notizia. Emiliano? Beh, c'è una molto importante che riguarda un tema anche questo molto caldo legato ai primi giorni di Obama, cioè il destino di questi detenuti di Guantanamo che Obama vuole chiudere. Una sessantina potrebbero transitare dall'Europa, ieri se ne è discusso a Bruxelles. E c'era un assenso italiano. Mi sembra di capire che a parte l'Italia, che con Frattini si è subito esposta e si è detta pronta ad accogliere accogliere un certo numero di questi detenuti non ci sia poi un grande consenso a livello europeo. Finora soltanto Irlanda, Portogallo e Spagna hanno aderito quasi con entusiasmo all'iniziativa di Obama. La Gran Bretagna per esempio ha fatto capire di aver già dato con il suo impegno alla lotta al terrorismo, quindi forse non vorrebbe avere altri detenuti tra le scatole, diciamo così. La Francia ha una posizione più mediana, dice che si dice pronta. Poi c'è il grande interrogativo del senso di questo trasloco, di questo trasferimento. Arrivano in Irlanda o arrivano in Portogallo? E poi una volta qui che cosa ne facciamo? Cioè, insomma, quale sarebbe qual è il senso? Qual è il senso? Di questo però non si è discusso, si è discusso soprattutto sull'opportunità o meno di accogliere dei detenuti. La Francia dice li potremmo accogliere, però ogni caso dovrà essere esaminato singolarmente e poi dovrebbe esserci la volontà precisa del detenuto di essere trasferito appunto in un altro paese, di chiedere quindi asilo per esempio in questo caso in Francia. Mi sembra molto emblematica la posizione della Presidenza della Repubblica Ceca, che insomma dice che l'accoglienza degli ex detenuti è una decisione nazionale, quindi un po', se vogliamo, se ne lava le mani. Rapidamente un paio di notizie di politica americana. Nascente amministrazione, il Senato ha confermato la nomina attesissima di Tim Geithner a segretario del Tesoro, 60 contro 34 i voti, quindi anche questa nomina si è andata a incasellare. Geithner è operativo e credo che Obama tiri un sospiro di sollievo. E nel frattempo ha rilasciato l'intervista di cui parlava poco fa anche Pietro Folena, la prima intervista televisiva a una rete araba. La cosa naturalmente ha un po' destabilizzato i giornalisti americani. Alla rete Al Arabiya ha detto tante cose, magari le analizzeremo nei prossimi giorni. Una in particolare: se l'Iran apre il pugno troverà una mano tesa. Proviamo a decodificare insieme questa frase, ma passiamo al nostro testimonial di oggi. Oggi è il giorno della memoria, la ricorrenza ufficializzata anche dal nostro Stato italiano con una legge del 2000, la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana ai cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito deportazione, prigionia, morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Tutto ciò è il ricordo che intercorre nel giorno della memoria. La data scelta ricorda quella del 27 gennaio 1945, quando l'Armata Rossa entrò a Auschwitz. Noi vi proponiamo una intervista a un intellettuale, storico, scrittore americano che si chiama Robert Sutloff, un personaggio di rilievo su questi argomenti, direttore di un think tank che si chiama Washington Institute for Near East Policy. È venuto in Italia a presentare un libro edito da Marsilio intitolato Tra i giusti, storie perdute delle Olocausto nei paesi arabi, che raccoglie le vicende più, per lo più sconosciute, di arabi che salvarono ebrei dall'Olocausto. La intervista è stata realizzata a Milano dal nostro Marco Lignana. La prima domanda a Sutloff è proprio se con il suo libro vuole dimostrare che gli arabi non siano per forza antisemiti. The purpose of my book is not to show whether Arabs are anti-Semites or not anti-Semites. Il mio obiettivo non era quello di scrivere un libro per dimostrare appunto l'antisemitismo o meno degli arabi. L'obiettivo del mio libro è quello di gettare luce su un capitolo della storia dell'umanità, cioè l'Olocausto, che è stato dimenticato dai paesi arabi. Quindi vuole essere una piattaforma affinché le persone di buona volontà possano iniziare un dibattito sull'Olocausto nei paesi arabi, un dibattito tra arabi, ebrei e la civiltà occidentale. Ecco perché ho scritto questo libro, non perché io volessi provare o meno l'antisemitismo degli arabi, ma perché appunto questo fatto dell'ignorare l'Olocausto ha un impatto politico, e volevo appunto dimostrare l'impatto negativo dell'ignoranza di questo fatto anche sulla politica. The negative impact that ignorance can have on the world in which we live. Però non si può negare che gli arabi siano a volte, anzi purtroppo molto spesso, antisionisti o al limite antigiudei. Ecco, come si risolve questa eterna distinzione anche di giudizio fra lo Stato di Israele da una parte e la popolazione ebraica dall'altra? It is certainly possible to critique Israeli policy. In fact, Israelis are among the most... Certo, è possibile criticare la politica di Israele, gli stessi israeliani la criticano. Qua appunto è quando l'antisionismo diventa antisemitismo, quando c'è questa grande fissazione, una grottesca fissazione sui misfatti di Israele o presunti tali, in un mondo in cui c'è il male che domina, oppure quando il Consiglio dei diritti umani dell'ONU si concentra totalmente su Israele e invece tace le situazioni tragiche che avvengono in Zimbabwe o in Iran. E questo è appunto quando l'antisionismo si traduce in antisemitismo. Life in Zimbabwe or Iran or anywhere else where there is human suffering, that is when anti-Zionism becomes anti-Semitism. Inevitabile un commento sulla situazione attuale a Gaza. Si può dire che qualcuno abbia ragione o abbia torto fra israeliani e palestinesi in quest'ultima guerra? Well, first of all, we shouldn't be speaking about the responsibilities of peoples, we should be speaking about responsibilities of leaders and governments. Non dobbiamo parlare certo della responsabilità dei singoli cittadini, ma la responsabilità del governo. C'è una grande differenza tra quelli che sono i leader di Hamas, il leader di Israele o la leadership dell'autorità palestinese. Ciò non riguarda tanto la crisi umanitaria, ma riguarda proprio questa leadership che è responsabile, in quanto ad esempio non possiamo dire che la leadership di Hamas serva o faccia giustizia ai diritti delle persone che Hamas sostiene di rappresentare. Quindi appunto il problema riguarda proprio nella leadership sia da parte israeliana che da quella palestinese. For peacemaking between the leaders of the state of Israel and the leaders of the Palestinian Authority. And so in that respect I believe there is a fundamental difference. Voce che state ascoltando, ve lo ricordo ancora, il nostro modo di celebrare la giornata della memoria, una intervista a Robert Sutloff, uno storico scrittore americano, il direttore del Washington Institute for Near East Policy, che ha un libro in uscita in Italia che si chiama Tra i giusti, storie perdute dell'olocausto nei paesi arabi. Un'altra domanda per Sutloff riguarda Gaza, ora che la guerra a Gaza è finita, a suo parere si può dire che una delle due parti abbia vinto? Sentiamo. Of course, when innocent people suffer, there is no winners or there are only losers. Ovviamente ogni qualvolta ci sono delle vittime innocenti in un conflitto non si può per certo parlare di vincitori ma solamente di perdenti. Tuttavia, da un punto di vista politico, questa guerra secondo me ha portato una maggiore sobrietà e il riconoscimento che solamente pochi attori possono cooperare per risolvere la situazione, cioè l'autorità palestinese e lo Stato di Israele. Hamas, soprattutto per i cittadini di Gaza ma anche per i palestinesi in generale, ha esposto le persone che rappresenta a un rischio, ma per la propria incapacità, l'incapacità di offrire loro una migliore vita da un punto di vista umano e anche di offrire loro un successo politico. Penso che Hamas da questo conflitto abbia dovuto incassare un duro colpo e non appena le acque si calmeranno questa cosa sarà secondo me evidente e quindi si dovrà approfittare di questo fatto per riuscire a elaborare e sviluppare un'alternativa più valida. Take advantage of this opportunity to build the more positive alternative. Un recente editoriale di Haaretz, che lo ricordiamo, è il più importante giornale di Israele, sosteneva la seguente tesi: uno Stato di Israele che rompe gli indugi, attacca Gaza, è un Israele, diciamo, al suo meglio, nel senso che ha la capacità di fare cose che gli altri stati vorrebbero fare ma che non sono capaci di fare. È d'accordo con questa analisi? If the editorialist is referring to the fact that Hamas... Beh, se questo articolo si riferisce al fatto che Hamas è visto come un avversario da paesi del Medio Oriente, diciamo moderati, come ad esempio l'Egitto, la Giordania, l'Arabia Saudita e altri paesi che invece temono appunto questa cosa, oppure il fatto che magari invece altri paesi non sono stati d'accordo con questo colpo da parte di Israele, allora diciamo che se quello è quanto intende questo articolo, allora è giusto. Sometimes quietly and sometimes not so quietly, cheering the Israeli blow against Hamas, then I think that's accurate because I think that is in fact what happened. Ora che a Gaza siamo in una situazione di tregua, da dove si riparte? Sia tra i palestinesi sia tra gli israeliani, che tra l'altro hanno alle porte un'elezione, e in questo contesto che ruolo può avere l'amministrazione Obama con Hillary Clinton come segretario di Stato? Well, the first set of steps have to do with on rebuilding and reconstruction and rebuilding in Gaza. Il primo passo consiste nella ricostruzione di Gaza e sarà cruciale, fondamentale accertarsi che Hamas non svolga un ruolo di agente in questa ricostruzione. Non si dovrebbe incoraggiare l'importanza di Hamas dopo che è stata, per così dire, sgonfiata in seguito a questo conflitto. Il secondo passo da fare è di accertarsi che venga impedito questo contrabbando di razzi verso la striscia di Gaza, appunto attraverso la frontiera, e questo sarà una cosa che anche l'Egitto dovrà in qualche modo controllare. E il terzo passo è quello di migliorare la sicurezza militare e anche lo sviluppo economico della Cisgiordania per un futuro diverso, e affinché la gente si renda conto che un futuro diverso può essere raggiunto con l'autorità palestinese e non con Hamas. E sicuramente gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo importante in entrambi questi tre aspetti: nella ricostruzione, nell'impedire questo contrabbando di razzi, e anche nella questione della Cisgiordania. Il presidente e il segretario di Stato americani, quando dicono appunto che vogliono che gli Stati Uniti svolga un ruolo maggiore in questo senso, intendono dire probabilmente che gli Stati Uniti stanno investendo tempo, soldi e sforzi per queste tre problematiche. From the earliest days of this administration, the United States will spend money and political effort from the president on down on these three issues. Siamo stati poco chiari prima parlando di Guantanamo, insomma, solo per dare una precisazione: quelli che eventualmente dovranno essere ospitati in Italia, ma come in Irlanda o in Portogallo, non sono, come scrive un nostro ascoltatore che si chiama Max, dei nostri connazionali rimandati in patria per essere giudicati da una corte normale. No, le cose non stanno assolutamente così, sono prigionieri, detenuti all'interno del carcere speciale di Guantanamo, che vengono distribuiti in una serie di nazioni che danno la disponibilità all'indomani della chiusura del carcere speciale. Questo solo per precisare. Torniamo a Robert Sutloff, lo scrittore americano con il quale stiamo celebrando il giorno della memoria in occasione della sua visita in Italia per la pubblicazione del suo libro Tra i giusti, storie perdute dell'Olocausto nei paesi arabi. Abbiamo chiesto a Sutloff proprio che cosa rappresenta per lui il giorno della memoria. The Holocaust, the Shoah, was perhaps the most heinous moment in human history. La Shoah è stato un momento di tragedia per tutta l'umanità, ma ci ha insegnato anche una lezione universale, una lezione per tutti i popoli, tutte le comunità senza eccezione. Il giorno della memoria internazionale è un giorno importantissimo perché sottolinea il fatto che nessuno è esente, escluso da questa lezione, e quindi è una lezione con cui dovrebbe occuparsi tutto il mondo accademico, le scuole, le università, e dovrebbe essere appunto una lezione in tutte le lingue, perché non si tratta solamente di una storia ebraica. Sì, è una storia ebraica, ma non è solo una storia ebraica, è una storia europea, ma non solo, è la storia di tutta della condizione umana, quindi interessa tutta la società civile, quindi tutti devono svolgere un ruolo per accertarsi che questa lezione venga imparata da tutti. The Holocaust is not just a mass killing, and it's not even just a genocide. Il genocidio non è stato solamente un omicidio di massa, uno sterminio di massa, perché gli stermini di massa avvengono anche oggi, ma in particolare l'Olocausto è stato uno sterminio di massa da parte della società più avanzata di quel tempo, che l'ha commesso alla luce del giorno, davanti agli occhi di milioni di persone che sapevano benissimo cosa stava accadendo. Quindi il meglio del mondo, cioè quella società che era il meglio del mondo, è poi diventata invece il peggio del mondo. E dato che questo è già successo, noi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga più e dobbiamo impegnarci affinché non ci sia una ricaduta in questo. We have to protect against the potential that all of us and all of our societies could fall into that same pattern. E infine un'ultima domanda per Satlov. Qualcuno in Italia, anche Giuliano Ferrara alla mattina qui su Radio 24, ha provato a porre una questione provocatoria, ovvero se non sia da ipocriti ricordare il giorno della memoria se qualche giorno prima si è scesi in piazza bruciando bandiere di Israele o paragonando Israele alla Germania nazista in occasione poi degli ultimi fatti di Gaza. Sentiamo la risposta di Satlov. I don't follow Italian politics that closely, so it would be a big mistake for me to. Non ho molta familiarità con la politica italiana, sarebbe per me un errore occuparmi degli affari politici interni dell'Italia. Tuttavia quello che posso dire è che trovo che sia un'oscenità che il giorno della memoria, appunto per la causa della pace, vengano utilizzati degli epiteti contro l'Olocausto e si strumentalizzi la metafora dell'Olocausto per descrivere invece un conflitto politico, perché effettivamente la questione arabo-israeliana è una questione politica, mentre invece l'Olocausto non era una questione politica, non è stato un conflitto in cui potevano esserci dei negoziati e quindi a cui si poteva trovare una soluzione a un problema politico. Quindi ritengo che sia osceno utilizzare la metafora dell'Olocausto per applicarla appunto a un conflitto di tipo politico. It is obscene to use the Holocaust metaphor in discussing a political conflict. Chiudiamo sempre sulla scia delle provocazioni. O non ha ragione la scrittrice Cinzia Ozick, che dalle pagine del Corriere della Sera chiede di annullare addirittura il giorno della memoria perché gli europei non ne sarebbero degni, visto l'antisemitismo dilagante? Well, I haven't read the article by Cynthia Ozick. She's a very provocative and well-respected American writer. Non ho letto l'articolo, però so che questa scrittrice è molto stimata, rispettata negli Stati Uniti. Io penso che il giorno della memoria sia uno strumento molto importante se utilizzato saggiamente. Io non credo che gli europei abbiano perso questo senso della memoria. Gli europei comunque si trovano di fronte a grandi problematiche e penso che sia il giorno della memoria che anche altre iniziative di tipo educativo siano più importanti ora che non prima della seconda guerra mondiale, perché attualmente ci sono molte persone, molti giovani che non hanno idea dell'enormità di quanto è avvenuto, di questo evento storico, e che quindi non hanno idea di come sia importante invece prevenirlo. Quindi io penso che questo giorno della memoria e tutte queste iniziative sono più importanti oggi che non in passato. So I think the general issue remains important, or perhaps even more important today than ever before. Express yourself. Obama contro Ratzinger, sta nascendo una guerra culturale. Avete continuato a rispondere su Facebook anche durante il dibattito tra Filippo Di Giacomo e Pietro Folena. Ecco qualche esempio. Roberto scrive: quanto contano, hanno contato le lobby della ricerca e dell'industria farmaceutica americana nella netta e quasi immediata presa di posizione della nuova amministrazione statunitense in materia? Giovanni: la Chiesa esprime liberamente, giustamente, i suoi pareri, poi è lo Stato, quindi cosa assai diversa, che prende decisioni in merito. Del resto, date a Cesare quel che è di Cesare. Via SMS, ci avete scritto in tantissimi, ricordo il numero 349-238-6666. Simo scrive: non è che Obama, con la scusa della libertà di scelta, ritorni alla politica clintoniana del controllo demografico? Franco da Castel Bolognese: in queste iniziative della Chiesa ci vedo una gran paura di perdere consenso e un grande affanno, mai una vera autocritica. Cioè, i cattolici dovrebbero correre dietro la Babele senza principi di Obama, si chiede un altro ascoltatore. E ancora Tommaso, il Papa afferma quanto l'uomo valga a dispetto di una scienza e di una vita che oggi elimina ciò che non piace e permette tutto dicendo che tutto è relativo e uguale a tutto. Ma che dice Folena sul Papa senza contestualizzare? Perché parlate di dicotomia e integralismo? Chi ha paura della Chiesa? Quanta gente che scrive messaggi senza esperienza? Marinella, per concludere, dice, scrive: caspita, fa impressione sentire una così forte critica all'imposizione del proprio pensiero sulla cultura africana fatta da un rappresentante della Chiesa Cattolica. Grazie della partecipazione, grazie a tutti, grazie. Questo è la Jefferson Ming di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico. La regia oggi è stata curata a Roma da Valerio Rocchetti, a Milano da Fabio Cantadori. La mail Jefferson 2, 2 scritto in numero, at radio24.it. Dal sito Radio 24 c'è un accesso automatico alla nostra mail. I due siti Facebook, iscrivetevi e partecipate. Redazione Jefferson 2 per parlare con la redazione, proporre e discutere. Jefferson 2, virgola, Radio 24, Express Yourself per partecipare ai dibattiti di cui poi diamo conto in diretta sul sito della radio. Anche qui c'è il collegamento a Facebook. Andiamo in replica a mezzanotte, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo. 变来变去都只是游戏